di guardarci dentro. Dimmi quando questa guerra finirà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che ci emozioniamo ancora davanti al mare. Oh, la nave verrà e sarà un giorno pieno di sole, e allora sì, ti cercherei, forse per sognare. Se così lontano il mare, Anna verrà col suo modo di rubarci dentro, di sorridere per questa libertà, noi che abbiamo un mondo da cambiare, noi che guardiamo indietro cercando di non sbagliare. Anna verrà, raccoglieremo i cani per strada, ci inventeremo qualche altra cosa per non essere più soli, sì, più soli. Oh, no, no. Dimmi se così lontano il mare. Anna verrà col suo modo di guardarci dentro, di sorridere di questa libertà. Anna verrà e sarà un giorno pieno di sole, e allora sì, ti cercherei, forse per sognare. Se vuoi toccarmi, vuoi capir chi sono, sorpresa la mia vita va. Apri gli occhi e comincia l'immensità, una strada infinita da prendere, riprovando ogni giorno si arriverà, oltre il mare agitato nel cuore. Apri gli occhi e comincia il cielo, verrà il giorno, verrà il sereno, spalancando ogni porta si arriverà, nel silenzio incantato del cuore. Non ho paura quando vivo, quando la pelle brucia, e avrò coraggio, sarò io la forza, sarò volontà. Apri gli occhi e comincia l'immensità, luminosa finestra aperta, con un po' di stupore si arriverà, oltre il mare agitato nel cuore. Apri gli occhi e inizia il cielo, sarai limpido, sarai bello, e cercando ogni giorno si arriverà, nel silenzio incantato del cuore. Apri gli occhi che splende l'immensità, vita mia sconosciuta e incerta, e cambiando ogni giorno si arriverà, nel silenzio incantato del cuore, oltre il mondo spietato nel cuore. Bell'amore, non mi lasciare. Bell'amore, non mi dimenticare. Rosa di primavera, isola in mezzo al mare. Lampada nella sera, stella polare. Bell'amore, fatti guardare, nella luna e nel sole fatti guardare, briciola sulla neve, lucciola nel bicchiere. Bell'amore, fatti vedere, e vieniti a sedere, vieniti a riposare su questa poltroncina a forma di fiore. Questa notte che viene non darà dolore, questa notte passerà senza farti del male, questa notte passerà, o la faremo passare. Bell'amore, non te ne andare, tu che conosci le lacrime e le sai consolare. Bell'amore, non mi lasciare, tu che non credi ai miracoli, ma li sai. Bell'amore, fatti cantare, nella pioggia e nel sole di cantare. Paradiso è veleno, zucchero e sale. Bell'amore, fatti consumare e vieniti a coprire. Vieniti a riscaldare su questa poltroncina a forma di fiore. Questo tempo che viene non darà dolore. Questo tempo passerà senza farci del male. Questo tempo passerà. Oh, oh, lo faremo passare. Vita salvere l'attesa delle mie emozioni, le confidenze del clamore assurdo di tante novità, anche la rabbia che cicatrizzava delusione, la trasparenza di un amico, tutte le notti che mi ha dedicato e la paura che mi ha spinto a credere nell'aldilà. Sconnessi che sono già persi, istanti di paglia bruciati dal fuoco, discorsi lontani che scottano poco, parole mai dette, sogni caduti, sentire la terra se stai a piedi nudi, gli appigli scavati su tante pareti, le porte forzate di quanti segreti, un sentimento che non si traduce. L'amore, se tu vuoi, puoi chiamarlo amore. Di questa vita non vorrei cambiare niente, neanche le mie brutte canzoni. Sono state il sale delle mie incertezze e sono ancora. Spicchi di vento da lanciare in alto come gli aquiloni, i compromessi per tentare il salto, le frecce aguzze delle mie opinioni sono il coraggio che mi aiuta adesso a vivere così. Ma quanto cammina e fin dove arriva, ricordi sconnessi che sono già persi, istanti di paglia bruciati dal fuoco, discorsi lontani che ascoltano poco, parole mai dette, sogni caduti, sentire la terra se stai a piedi nudi, gli affigli scavati su tante pareti, le porte forzate di quanti segreti. We'll be right back. non si traduce nell'amore. Se tu vuoi, puoi chiamarlo amore. Thank you. questa voce potrà così dirti tutto di me. Ascolta le parole, con il cuore ti parlo. Oh, guiderà. Sono ancora qui negli angoli segreta compagnia. L'amore è un attimo di forza e libertà, leggeri e attenti si ballerà. Si scioglierà la neve e il cielo c'era. Si scioglierà la neve e rinascerai così ad occhi aperti. Il buio si attraverserà. Torno a parlarmi dolcemente, stringo aria, stringo niente senza di te. Non cercare più, non chiedere, si capirà, si capirà, si capirà. Corre accanto a te, si strada invisibile dei giorni avanti a noi. Non decidiamo mai, con poco sai si partirà. Si scioglierà prenderti ovunque sei. E allora accendi gli occhi nell'oscurità. Non ho aria, non ho niente senza di te. Senza di te. la mia vita è così. questa qualche un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi, voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino. Chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa, qualche un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento te dall'anima. La mia vita siete solo voi. Voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento te dall'anima. La mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi, voi, solo voi, come vi dicevo prima, quasi per caso in un ristorante romano ci siamo alzati nello stesso istante e ci siamo ritrovati in una saletta dove c'erano degli strumenti e quasi per caso ognuno di noi si è trovato al proprio posto. Vittorio De Scalzi al piano e chitarra. Flavio Piantoni al basso, Giorgio Usai alle tastiere, Gianni Belleno alla batteria, Aldo De Scalzi alle tastiere, computer e chitarra ed infine Ricky Belloni alle chitarre. Ed è stato lì che ho scoperto che cantavo con i New Trolls, perché i New Trolls, oltre che essere un gruppo storico, sono stati definiti le voci più belle d'Italia. E chi meglio di loro al momento di scrivere le canzoni del mio ultimo album poteva entrare esattamente nel mio mondo musicale. Loro ci sono riusciti, adesso proverò io ad entrare nel loro. Garantito perché non mi muovo. volete fare, provate con me, smettete di sognare, fatelo con me. Strappo via, la giacca è già sparita, il rasoio è quasi dolce fra le vostre dita, uno strappo più forte che segni le spalle, ma sapete bene voi che il nylon taglia la pelle. Con un ritaglio di giornale. sei stanco, che ride e piange al mio fianco. Dietro l'ombra dei frammenti di gloria cercano nuovi domani. Farei di tutto, dice il corpo al pennello, per pitturarmi la vita senza sporcarmi le mani. Stanno cadendo stalattiti dal muro come ricordi gruffiani. Stanno spiovendo le ultime ore di questa notte che ha tutte le ombre nel cuore. Quelli che rubano passano. Questa notte con le notte notte. storie senza pietà. La tua preghiera invece è solo un fruscio, chiunque uccide un altro è senza Dio. Dove sei? La gente non ne può più, perché non serve qua giù quel mezzo angolo del cielo. Da dove guardi noi? Un mezzo angolo del cielo che è solo per gli eroi. Ma noi non siamo così, dobbiamo vivere. cuori malleabili, sguardi tiepidi di cortesia, situazioni facili, la tua strada non è più la mia. Non scendo, baci tu, non scendo, torno su. In un vecchio stabile, gli occhi attenti della servitù, dove si nascondono sotto il trucco segni dell'età, mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà. Oh, scendo, baci tu. Ma che antenna attiva è giacca a doppio petto, per avere un cuore in più, tanti nodi al fazzoletto per non passarci su, piedi grandi per sentire che la terra è sempre là, col mio compagno e somiglia troppo a me, quando cado e mi vergogno che so poi perché, quando è duro avere torto ed ormai non serve più, quando è duro il mio rapporto con la mia gioventù. Chiamo il mio pagliaccio azzurro dal futuro mio, sto con lui ma non gli chiedo mai chi sarai, chi sarai. Tra noi due, pagliaccio azzurro, di noi c'è uno strano feeling che ci vede ormai. Tra di noi c'è magia e lo sai. Se tu vuoi puoi inventarmi come meglio credi tu. Se tu vuoi puoi avere di più. Pensami per te come fossi il frutto di un'idea che da niente. Something new in love. Solo per te e tu mi vuoi. io sono qua. Docile per te. Stenditi, prendi i miei momenti. Da sola per te, già lo sai. Troverai pane per i denti. È un cuore solo se ce l'hai. Ecco sono qua. Libera per te. Vai, vieni qui. Sorridi che vuoi. Continua così l'amore che mi fai. Senza di me, la vita si vive fuori di me, in cui mi, senza di me. fatta di male. Cosa ci fai dentro quel letto immenso? Dove parlavo tempo? Sul fondo degli occhi tuoi. Le amo e mi seguo senza di te. Ma notte col primo sole si sveglia il cielo di una città, con storie scritte sui muri, storie di ieri, oggi chissà, fatte di giochi duri, di desideri finiti già. Yeah.

cresce in me. È una paura che nasce, imponderabile e confonderemente, che non si pente. E poi, per me, più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male. Una parola detta piano, un mastice, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta. Vengo verso di te, un destino naturale. Ti ricordi di me? Credo che sì. Boulevard des Italiens, quella musica improvvisa. Vedi, non piove più. Saranno tuoi questi giorni di vento. musica e amore, dal quale ci faremo scaldare. Se fossi lo spirito di questo vento, fossi lo spirito di questa canzone, te lo saprei spiegare. Che per noi, che tutto per noi qui intorno è per noi. Sì. Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire, 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato. Dove comprare? E tenti l'italiano che tu sai, sei fermo lì. Due stelle bianche come il latte, gli occhi tuoi. Cosa c'è nel fondo degli sguardi che tu fai? La libertà, ma brucia più del sole che hai lasciato là. L'Africa non è lontana, l'anima non ha un colore, grida ancora la savana nel tuo orgoglio da leone. Ma fa paura questa città, da fratello a fratello.